dinamica maggiore viene dalle esportazioni, c'è una certa ripresa anche degli investimenti, i consumi continuano a fare molta fatica ad avanzare, e questo diciamo è un po' il quadro nel suo insieme. Quello che va sottolineato è appunto che il mondo invece cresce bene, cresce molto, anche in Europa la Germania continuerà a correre quest'anno, anche se ovviamente non replicherà il più 3-6% dell'anno scorso, però viaggerà abbondantemente sopra il 2%, mentre noi stiamo inchiodati a un 1, che era la velocità che avevamo prima della crisi, a conferma del fatto che questi problemi sono precedenti la diciamo grande recessione che c'è stata nel cavallo tra 2008 e 2009, e tra l'altro sono problemi che ci portiamo avanti da molti anni, e in un certo qual modo sono problemi bipartisan, cioè hanno attraversato maggioranze e governi di ogni colore nel nostro paese.